Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Venezia, anno 1964. Alla Biennale Arte va in scena un allestimento destinato a cambiare per sempre la storia della cultura occidentale, la pop art americana. Le opere arrivano da oltreoceano e appartengono ad artisti della scuola newyorkese della pop art, promossa e sostenuta in America dal gallerista italo-americano Leo Castelli. Sbarcano a Venezia, addirittura scortate dalla sesta flotta della Marina Militare Americana, schierate in assetto da combattimento. Un'invasione in piena regola, tanto che dopo lo sbarco queste opere non solo occupano la Biennale e i suoi giardini, ma anche il Consolato Americano e il Teatro della Fenice. Sarà una biennale epocale, destinata a consacrare l'egemonia dell'arte americana. Il mondo occidentale va verso la definitiva americanizzazione in tutti gli ambiti della cultura popolare. A Rauschenberg viene assegnato il premio internazionale della Biennale, ma nomi come Andy Warhol, Kles Oldenburg, Tom Wesselman, James Rosenquist, Roy Lichtenstein documentano in maniera precisa la cultura visiva popolare statunitense, trasformando in icone le immagini più note o simboliche tra quelle proposte dai mass media. È una cultura largamente dominata dalle immagini che provengono dal cinema, dalla televisione, dalla pubblicità, dai rotocalchi, dal paesaggio urbano delle metropoli degli States, sovrastate dai sempre più frequenti cartelloni pubblicitari. La pop art contribuisce a creare nuovi idoli o miti in cui le masse popolari possano identificarsi. L'artista più celebre e influente di questa corrente è senza dubbio Andy Warhol, che non sarà soltanto una figura in grado di provocare e stimolare frequentatori delle gallerie e dei musei, ma saprà contaminare con il suo carisma anche altri ambiti artistici, tra cui ovviamente la musica. Il suo istinto visionario corroderà nel profondo il mondo della discografia a partire dalle copertine memorabili che saprà concepire. Dalla storica banana del celebre LP dei Velvet Underground fino all'artwork dedicato ai Rolling Stones di Love You Live, passando per immagini meno note, quelle create per Loredana Bertè e Miguel Bosé, oltre 60 copertine realizzate tra il 1949 e il 1987 per un impatto visivo di rara potenza e incredibile forza comunicativa. In modo diretto o indiretto, Warhol e la pop art hanno influenzato decine e decine di musicisti e di star dello show business musicale a cavallo tra i 60 e i 70. La cura dell'immagine, l'istrionismo sul palco e fuori, il confine sempre più sottile tra performance musicale e attoriale, sono concetti mutuati dai più celebri aforismi di Andy Warhol. O si è un'opera d'arte o la si indossa, dice l'artista newyorkese riprendendo da Oscar Wilde. L'artista che più di ogni altro fa propria questa visione del mondo è il grande David Bowie. Settembre 1971. Bowie è a New York con sua moglie Angie. Sta per firmare un nuovo contratto con la CBS. David è quasi ossessionato dalla figura di Andy Warhol, tanto che ha deciso di dedicargli la canzone che sentite in sottofondo. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery. Put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen. Can't tell them apart at all. Durante la visita newyorkese, Bowie chiede e ottiene di poter visitare il suo maestro alla Factory per fargli ascoltare il brano. La reazione del bizzoso artista non è delle migliori. La prese veramente male. Fece un'espressione quasi di disgusto e abbandonò seccato la stanza. Bowie però permette a Warhol di fotografarlo e di ritrarlo. In particolare l'eccentrico artista sembra attratto dalle scarpe di David, un paio di zeppe giallo canarino con la punta arrotondata che gli erano state regalate da Mark Bolan. Arrivederci David, hai delle scarpe bellissime, gli dice Warhol dopo aver scattato qualche foto. Esibizionismo, sfrontatezza, citazionismo. La carriera di David Bowie, densa e longeva, è sempre stata improntata alla provocazione e alla capacità di stupire attraverso continue metamorfosi. Bowie è un artista che, come pochi altri, si è dimostrato in grado di ascoltare lo spirito dei cambiamenti della storia e della società, di cavalcare le mode e di rinnovare costantemente il suo personaggio. Non credo che esista una verità assoluta. È un'idea che ho sempre sentito dentro di me istintivamente, ma che è stata confermata da un libro di Georges Steiner che ho letto sul postmoderno. Quel libro mi ha dato la conferma che c'era una specie di teoria dietro quello che stavo facendo. Che potevo apprezzare artisti disparati come Igor Stravinsky e i Velvet Underground, The Incredible String Band e Gustav Mahler. Da allora tutto ciò ha cominciato ad avere un senso. Credo che la cosa peggiore per un artista sia mantenere un certo tipo di celebrità e di successo commerciale per tutta la carriera e poi ripensare a tutte quelle cose che si sarebbero potute fare o almeno tentare di fare e poi chiedersi perché non l'ho fatto. Ma a quel punto è troppo tardi. Al di là della passione per Warhol, che gli ha permesso di comprendere meglio la sua esigenza camaleontica e citazionistica, cosa ha permesso a Bowie di diventare ciò che è oggi? Una star di fama internazionale, un'icona pop, una celebrità assoluta. Anche nel suo splendido percorso artistico ci sono dei magnifici destini che hanno permesso al suo talento di prendere la giusta direzione. L'infanzia difficile è uno dei cliché più frequenti di molte star dello show business. Nel caso di David Bowie si può certamente dire che un contributo alla lucida follia che ne caratterizzerà la carriera proviene proprio dal suo contesto familiare in cui si trova a crescere. Il suo vero nome è David Jones. Nasce vicino a Londra l'8 gennaio del 1947. Sua madre, Margaret Mary Burns, ha condotto una vita sregolata e ha già due figli nati da relazioni occasionali con uomini sposati. Uno di questi, Terry, è un giovane sensibile e talentuoso, ma affetto da una grave forma di schizofrenia. Se a volte ho dato segni di squilibrio, non venite a prendervela con me. Provate voi a vivere in una famiglia dove tutti prima o poi sono andati fuori di testa. Io in fondo ne sono uscito anche troppo bene. David si affeziona molto al fratellastro che sarà per lui sempre fonte di ispirazione e riflessione. In una situazione familiare così carica di tensione, anche per i frequenti e accesi litigi tra mamma Maggie e il padre David Jones, la futura rockstar scopre la passione per la musica attraverso uno strumento insolito per un adolescente, il sassofono, su cui si esercita per ore e ore. Le sue prime passioni musicali sono artisti black, come Ray Charles e James Brown. David ha però la fortuna di crescere nel cuore della Swing in London, una miniera inesauribile di spunti e di stimoli per chi vuole fare musica. Così, tra gli studi che non decollano e i sogni di evasione, David, con qualche amico d'infanzia, inizia a fondare band che tentano la loro strada nell'underground. Canta, suona il sax in gruppi come Manish Boys, The Conrads, King Bees e i Buzz. Londra era una polveriera. La droga imperversava, le pasticche erano appannaggio dei mod. Vivevano solo grazie alle anfetamine che permettevano loro di ballare, di trascinarsi per tutta la notte. L'eroina arrivò più tardi, alla fine degli anni 60, e io volevo vedere e capire quello che capitava. La mia paura era di passare di fianco a una nuova moda che stava per arrivare senza accorgermene. Non desideravo altro che locali. Ci andavo sia per l'esperienza, sia per riempirmi le orecchie, per il volume alto, per ascoltare Georgie Fame, per scoprire il jazz. Bowie passa da un gruppo all'altro e tenta anche come solista. Conosce nel frattempo il manager Kenneth Pitt, che gli suggerisce di adottare il cognome Bowie, che deriverebbe dal coltello Bowie Knife, per evitare confusioni con Davy Jones dei Monkees. L'avventura solista però stenta a decollare. Bowie sembra a metà strada tra il folk britannico e le tentazioni psichedeliche. Comunque, nel 1967 riesce a pubblicare il suo primo album solista, David Bowie, uscito per la Deram nel 1967. In questo disco si trovano tutte le contraddizioni e la confusione musicale dell'artista e mostra un cantautore ancora molto acerbo, zoppicante. Rubber band. Won't you play your haunting theme again to me while I eat my scones and drink my cup of tea? The sun is warm, but it's a lonely afternoon. È necessaria una svolta, insomma. Una svolta che passa attraverso l'incontro con la persona giusta, il produttore Tony Visconti, il primo magnifico destino della carriera di David Bowie. Tony Visconti, alla fine degli anni 60, è un produttore emergente giunto a Londra da Brooklyn per cercare il successo. Si è già messo in luce per alcuni buoni lavori con il gruppo gallese di Ives, poi famosi come Bad Fingers. Nel 1967, il primo incontro con Bowie. Avevo ascoltato il suo album d'esordio e avevo capito che c'era un talento enorme e una capacità di comunicare straordinaria. Era grezzo, certo, ma del resto lo ero anch'io come produttore. Il nostro primo lavoro insieme del 1969 fu il primo passo di un matrimonio artistico lunghissimo, di cui non posso che andare fiero. Il secondo album di Bowie è il primo dei 10 che vedranno l'artista inglese e il produttore collaborare insieme. Space Oddity è il titolo con cui è noto questo disco, che nel Regno Unito esce inizialmente col titolo David Bowie, mentre negli Stati Uniti viene pubblicato dalla Mercury come Man of Words, Man of Music. Nel 1972 viene nuovamente distribuito in Gran Bretagna dalla RCA come Space Oddity, per evitare confusione con l'album di debutto. Visconti dà il suo apporto, cerca di dare uniformità, anche se egli stesso si sente ancora privo di esperienza, e considera l'album l'occasione giusta per crescere. In realtà non sapevo molto di qualità timbrica e ignoravo come pompare la sonorità degli strumenti impiegati nel rock. Comunque sono orgoglioso di diversi brani nei quali mi sono sentito più a mio agio grazie al fatto che sapevo suonare il basso e il flauto, come Letter to Hermione o Occasional Dream. Space Oddity è un album indubbiamente ancora acerbo. Tuttavia Visconti riesce a tirare fuori da Bowie un notevole spessore in fatto di testi e a limare alcune contraddizioni sonore. Ciò nonostante, il difetto maggiore di questo disco è proprio la sua eccessiva varietà, che può disorientare l'ascoltatore. And when he's strong for you, and when you kiss it something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do. So I'll just write some love to you. Il fatto curioso è che Visconti, a cui si deve la prima svolta verso la maturità di Bowie, produce tutti i brani dell'album, tranne quello che avrà più successo, cioè la futura title track Space Oddity. Molti considerano Space Oddity non solo la più famosa, ma anche la più straordinaria canzone di Bowie. Non a caso detiene il primato del suo disco più venduto in Inghilterra e si piazza in classifica due volte a distanza di diversi anni, nel 1969 e nel 1980. La storia dell'ultimo fatale viaggio del maggiore Tom nello spazio è entrata nel mito. Molti si sono sforzati di dargli reconditi significati ed è diventata fonte di ispirazione per molti musicisti. David, come sempre, è vago nelle sue spiegazioni. Accenna soltanto al fatto che nel protagonista di questo singolo ha messo se stesso e tutta la sua alienazione. Il maggiore Tom, che ignora volutamente i ripetuti appelli della torre di controllo, sembra anticipare le tematiche del solipsismo e della fuga dalla realtà, tipiche degli anni più maturi. Ma tra la favola moderna raccontata in Space Oddity e la vita reale di David, ci sono punti di contatto reali. Si dice che il suo amore con la fidanzata Hermione sia finito proprio il giorno prima dell'incisione del disco, il 2 febbraio del 1969. È stato un trucco per approfittare dello sbarco sulla Luna. In quel periodo David stava scrivendo delle bellissime canzoni e improvvisamente salta fuori con Space Oddity, che era così tremendamente di attualità. L'uomo si apprestava a compiere la sua prima passeggiata sulla Luna e lui ne usciva con una canzone di quel tipo. Io gli dissi che avrebbe ottenuto un grande successo con quel disco, ma io non volevo averci niente a che fare. Il singolo viene pubblicato in tutta fretta l'11 luglio, giusto in tempo per la memorabile impresa dell'Apollo 11 del 20 luglio, e la canzone viene adottata come una specie di inno alla spedizione lunare. Da allora viene sistematicamente riproposta nei vari documentari sulle esplorazioni spaziali. Ma Bowie commenta con ironia: sono sicuro che non avevano ascoltato veramente bene il testo. Non era certamente la cosa più adatta da scegliere come colonna sonora delle immagini di un atterraggio sulla Luna. Naturalmente il fatto che la usassero mi faceva piacere. Penso che qualche pezzo grosso della BBC debba aver detto: ah bene, quella canzone sullo spazio del maggiore Tom farà un effetto magnifico. Ma nessuno si è accorto che l'astronauta si perdeva nello spazio. I magnifici destini. Il film L'uomo che cadde sulla Terra di Nicholas Roeg, data 1975, vede Bowie nella parte di un alieno paranoico e corrotto. In pratica Bowie recita se stesso, tanto che il regista dichiarerà di essersi ispirato a Cracked Actor, un documentario sulla vita del rockstar che risaliva all'anno precedente, girato a Los Angeles, dove Bowie si era trasferito e viveva mangiando solo latte e peperoni nel suo appartamento, in cui disegnava pentacoli sulle tapparelle e riceveva partite di coca e groupies. Are you the first? The first one. Is it, sir? Nothing you have seen or heard about David Bowie. A metà degli anni 70, insomma, questo è David Bowie. Una star che ha ottenuto un successo enorme e impronosticabile, camaleontico, trasformista, in grado di cavalcare le mode, a volte irrimediabilmente perso all'interno dei suoi personaggi. Il più celebre dei quali è senza dubbio Ziggy Stardust, eroe del concept album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che narra di un mondo sull'orlo dell'apocalisse in cui l'ultimo eroe è un ragazzo divenuto rockstar grazie a un aiuto extraterrestre. Jumped up on the stage, and Lady Stardust sang her songs of darkness and dismay, and he was all right. L'aura che si è creata attorno al personaggio di Bowie Ziggy ha tenuto per anni prigioniero il suo creatore, tanto da indurlo ad ammazzare la sua creatura, annunciandone il definitivo ritiro nello storico ultimo concerto dello Ziggy Stardust Tour all'Hammersmith Odeon di Londra nel 1973, con Bowie ancora accompagnato dagli Spiders from Mars. Everybody, this is me. Voglio dire a tutti voi che questo è stato uno dei tour più grandiosi della nostra vita. Voglio ringraziare la band, voglio ringraziare i nostri tecnici, i nostri datori luci. Questo non è solo l'ultimo concerto del tour, è anche il nostro ultimo concerto. Grazie. Quando parlano di me usano sempre il termine travestimento. Non credo sia la parola esatta. Io ho creato un certo numero di personaggi a partire naturalmente da Ziggy Stardust. E questo è ben diverso dall'idea del travestimento. Solo che a un certo punto ero ossessionato dal personaggio. Ero diventato Ziggy. Tutti cercavano di convincermi che ero diventato un messia. Mi sono perso nelle mie stesse fantasie. Penso di aver sfiorato pericolosamente il limite. Ho lavorato con i personaggi del rock fino al 77. Poi ho deciso di smettere e ho cominciato a presentare musica diversa che non aveva bisogno di personaggi. Facevo i miei pezzi ed ero me stesso. Perlomeno come si può essere se stessi davanti a un pubblico di migliaia di persone. Liberato da Ziggy Stardust, ma immerso nei suoi eccessi da rockstar, David Bowie approda nel 1975 a Berlino. Domicilio Schöneberger Hauptstrasse 155. Alla domanda perché Berlino, Bowie cita Günter Grass, che aveva descritto la città come il centro di tutto quello che sta succedendo e succederà in Europa nei prossimi anni. Tony Visconti afferma più direttamente che a Berlino, chiunque tu sia, non sei un cazzo. Fatto sta che nella suggestiva città tedesca, ancora spaccata in due dal muro e dalla cortina di ferro, Bowie trova il modo di sfogare interamente sull'arte le sue inquietudini e i suoi tormenti, derivanti anche dal tramonto del suo matrimonio con Angie Barnett, che gli aveva dato anche un figlio. Compone nuovi pezzi e capisce subito che sono fra i più ispirati della sua carriera. Ero stufo di fare il pagliaccio negli States. Avevo bisogno di un nuovo linguaggio per la mia nuova vita. Lo è un disco terribilmente introspettivo in cui esprimo me stesso, le mie reazioni al suggestivo mondo dell'est. Low è il titolo dell'album che Bowie ha iniziato a comporre con il fido Tony Visconti a supporto. David sente però che è necessario un tocco diverso, un lavoro sui suoni più profondo e innovativo. Così nel maggio del 1976 decide di contattare un grande musicista in ascesa, Brian Eno. A Ino era piaciuto molto Station to Station, l'ultimo album di Bowie, mentre David ammirava sinceramente le nuove sonorità esplorate dall'ex membro dei Roxy Music con Discreet Music e la propensione di quest'ultimo verso compositori minimalisti come John Cage e Philip Glass. Così David contatta Ino, invitandolo a prendere parte alle sessioni per il suo prossimo album, che a suo dire avrebbe dovuto essere un disco puramente sperimentale. Ino accetta di buon grado l'invito di Bowie. Il suo arrivo in sala di registrazione elettrizza la band, che nel frattempo ha già provato e registrato le basi dei brani. L'approccio di Ino al lavoro in studio rasenta però la stregoneria. Spiazza i musicisti. Si tratta della tecnica delle 124 carte delle strategie oblique, da lui ideata nel 1975. 124 carte vengono girate a caso dai musicisti in studio e vi trovano scritte misteriose ed enigmatiche indicazioni su come interpretare un pezzo. Enfatizza gli errori, riempi ogni battuta con qualcosa o usa un colore inaccettabile. Ne risulta per Bowie un approccio compositivo inedito, libero e fuori dagli schemi, che suscita però qualche malumore nel resto della band, assoldata come al solito da Tony Visconti. In ogni caso, Bowie, suggestionato dal carisma di Ino, decide anche per i testi di adottare una concezione impressionista, non lineare. I testi dell'album Low sono scarni, minimalisti, frammentari. 6 pezzi su 11 sono addirittura strumentali. Il breve testo presente in Warszawa, una delle canzoni dell'album, è costituito da un linguaggio immaginario e onomatopeico. Il gruppo incide prevalentemente di notte. Bowie arriva in studio con dei vari frammenti musicali appena abbozzati, senza testi o melodie definite. La sezione ritmica viene lasciata libera di improvvisare in una sequenza libera di accordi, fino a quando non emerge qualcosa di interessante che, grazie alle intuizioni di Bowie o Visconti, si trasforma in arrangiamento. Quindi inizia il lavoro di sovraincisione delle parti soliste di chitarra e degli assolo degli altri strumenti, tutti elettronicamente trattati da Ino. Quest'ultimo utilizza un sintetizzatore portatile EMS di sua proprietà, dando libero sfogo a creatività e immaginazione. Tra i 3 dischi concepiti a Berlino, che prendono il nome di Trilogia Berlinese, il vero capolavoro è il secondo, che non a caso è quello in cui Ino avrà una parte molto più importante. C'è da dire che insieme a Ino, un'altra presenza fondamentale per il capolavoro di Bowie è Robert Fripp, chitarrista dei King Crimson, che arriva a Berlino una sera e riparte la mattina dopo, dopo avere registrato tutte le sue parti in 6 ore, spesso senza ascoltare i brani su cui avrebbe suonato. Ino però, grazie al suo prodigioso sintetizzatore, processa in diretta i suoni di Fripp, creando atmosfere straordinarie. Un esempio è il suono della title track del disco. Il disco viene registrato nella sala più grande degli Hansa Studios di Berlino, la Hall by the Wall, ex sala da ballo dell'epoca di Weimar, usata poi dai nazisti per ricevimenti. Dalle sue finestre si possono vedere i militari armati che fanno la guardia al muro. E proprio guardando una coppia abbracciarsi all'ombra del muro, il produttore Tony Visconti e la cantante Antonia Maas, Bowie dà alla luce il testo di Heroes. Il terzo album della trilogia che vede Bowie ed Ino affiancati è Lodger, prodotto dallo stesso team dei primi due. Qui però, a onor del vero, non c'è niente di berlinese. Nei luoghi, dato che è stato registrato tra Montreux, Svizzera e New York, nei suoni, con apertura al mondo orientale africano visitato da Bowie nell'ultimo anno. Disse bene la casa discografica che nel 1977 lanciò Heroes con questa frase: c'è la Old Wave, c'è la New Wave e poi c'è David Bowie. I magnifici destini. Vi abbiamo raccontato la rinascita artistica e personale di David Bowie a Berlino. È importante precisare però che a Berlino Bowie non abita da solo. Divide il suo appartamento al 155 di Schönberger Hauptstraße con l'amico Iggy Pop. Si tratta di un legame importante e quello che li unisce è indubbiamente per entrambi un magnifico destino. Nel 1969, Iggy and the Stooges erano una macchina di distruzione e rock and roll mai vista prima, un fenomeno della cultura occidentale, fondatori ideologici insieme ai grandi MC5 di quello che più tardi sarebbe stato etichettato punk con la P maiuscola. Sono stati anni di eccessi per Iggy, tutte le droghe assunte, notti estreme tra la gente della Factory di Andy Warhol. Bowie rimane estasiato e colpito dalla furia di Iggy Pop e della sua band sul palco. Iggy dà libero sfogo alla parte animalesca del rock, il lato selvaggio dell'America esistenzialista. E naturalmente, essendo impazzito per l'America e la musica americana, era tutto ciò che io credevo dovessimo avere in Inghilterra. Il loro primo incontro avviene in un club di Kansas City nel 1971. Si chiama Max's. Immaginatevi il tipico club anni 70. Luci soffuse, strobo, musica altissima. I due si conoscono, si piacciono, si promettono una futura collaborazione. Solo che Iggy Pop, soprannominato l'Iguana, entra in crisi. Crisi di ispirazione, crisi artistica, di consensi di pubblico e crisi personale. Di fatto non riesce più a pubblicare un album decente dai tempi di Raw Power, il suo ultimo album classico con gli Stooges. Il primo aiuto che Bowie offre a Iggy Pop è nel 1975, quando gli offre di accompagnarlo nel suo tour americano di supporto all'album Station to Station. Nel 1975, quando non stavo facendo granché, mi invitò ad unirmi al suo Station to Station tour del 76. Non avevo mai visto in vita mia nessuno lavorare così tanto. Si alzava alle 8 del mattino per viaggiare in macchina fino al luogo del concerto. Sì, perché non prendeva l'aereo. In macchina c'era sempre una collezione delle cassette più nuove di artisti di tutto il mondo. Li ascoltava. Conosceva Tom Waits prima di chiunque altro. Conosceva i Kraftwerk prima di chiunque altro. Arrivava a destinazione, dava un paio di interviste, dormiva per una mezz'ora e saliva sul palco per fare lo show. E dopo lo show non si fermava. Andava a vedere le band che c'erano in città, bussava alla porta del suo chitarrista alle 4 del mattino per fare una nuova canzone. Io ero esausto soltanto a guardarlo. Un anno dopo, però, Iggy Pop viene ricoverato in una clinica per problemi di droga. La leggenda racconta che Bowie porti la cocaina a Iggy Pop mentre si trova in riabilitazione a Los Angeles. Gli domanda: andiamo a Berlino? E Iggy gli risponde dopo un attimo: perché no? Insomma, a Berlino insieme vanno un cocainomene come Bowie, in causa con il suo vecchio manager, in crisi matrimoniale e assediato da istinti suicidi, e Iggy, eroinomane in cerca di ispirazione. Il piano è di ripulirsi entrambi di tutte le sostanze, fare musica, essere anonimi e creare insieme. Obiettivamente non si ripuliscono poi molto, però compongono alcuni tra i dischi più importanti degli anni 70, questo sì. David è quanto mai deciso a lanciare la carriera solista di Iggy. E la prima cosa che fa una volta messo piede negli studi Hansa di Berlino è produrre e mixare l'album The Idiot insieme a Tony Visconti. Album che contiene molti brani, molte melodie e molti arrangiamenti che Bowie stesso ha influenzato in prima persona. Lo fa per due motivi, per amicizia certamente, ma anche perché nella sua testa si sta materializzando Low, il primo album della cosiddetta trilogia berlinese, e David decide di usare quell'album come prova generale per il sound del suo album successivo. I testi, inoltre, sono quasi interamente di Bowie, ed è lui soprattutto a indicare la copertina dell'album che scimmiotta il quadro rock and roll di Eric Heckel, artista del gruppo espressionista Die Brücke, molto amato da Bowie. Quando finisce il lavoro su Low, Bowie pubblica subito l'album, ma si rifiuta di promuoverlo, preferendo paradossalmente fare da tastierista per il tour di Iggy che accompagna l'uscita di The Idiot tra i mesi di marzo e aprile del 77. Con Lust for Life, prodotto pochi mesi dopo, Iggy si svincolerà con tutte le sue forze dall'ingerenza di Bowie. 10 anni più tardi inciderà però un altro album di David Bowie in cui di fatto ci ha messo solo la voce, il nome e la faccia. Bla bla bla. Da Heroes in avanti, le due carriere torneranno ad essere separate per poi incrociarsi nuovamente in seguito altre volte. Certamente, il ruolo di Iggy Pop nella vita e nella carriera di Bowie è stato fondamentale, se si pensa che anche il nome di Ziggy Stardust è stato scelto in omaggio all'iguana del rock. Il camaleonte David Bowie, però, saprà uscire dagli anni 70 in maniera molto più duttile e intelligente, adeguandosi e ribaltando a proprio favore qualsiasi moda e qualsiasi tendenza dei decenni successivi. Non solo rockstar, ma anche attore di successo, pittore, artista a tutto tondo. Il Duca Bianco, come recita uno dei suoi tanti soprannomi, è uno dei veri immortali della storia della musica rock.